insonni, quelle che attraversi un po' così, senza infamia, senza gloria. Un eterno buio lunedì, perché cerco pace in un respiro lento. La mia mente non si ferma mai un momento, come gocce di un diluvio intenso. Sto cadendo giù, come volevi tu, e ti penso che sono già le 4:30, sabbie mobili nel letto, io ci sto annegando dentro. Con tutto il tempo che c'ho addosso neanche mi diverto. Dopo di te, dopo di te. È stato stupido, peccato, respiro bolle, la sparo da giorni, piove sul bruciato e sono privo di te, privo di te. Mi ha fatto a pezzi, cuore ingrato, sono le 4:30 e ancora ti penso ancora, ti penso, giuro. Maledetto questo inverno, senza ossigeno si spegne ogni mio intento. Come in un film dalla trama oscura, dove ormai nessuno più si innamora. C'è un finale a questa storia assurda. Sto cadendo giù, come volevi tu, e ti penso che sono già le 4:30, sabbie mobili nel letto, io ci sto annegando dentro. Con tutto il tempo che c'ho addosso neanche mi diverto. Dopo di te, dopo di te. È stato stupido, peccato, respiro bolle, la sparo da giorni, piove sul bruciato e sono privo di te, privo di te. Mi ha fatto a pezzi, cuore ingrato, sono le 4:30 e ancora ti penso ancora. Penso ancora, ti penso, ti penso. È stato stupido, peccato, respiro bolle, la sparo da giorni, piove sul bruciato e sono privo di te, privo di te. Mi ha fatto a pezzi, cuore ingrato, sono le 4:30 e ancora ti penso ancora, ti penso, giuro.